Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar, parte seconda, lezione 17. Prima dell'inizio della lezione ho sentito le persone parlare di come accendere le candele al tempo di Chanukah. Ho già parlato di questo argomento l'anno scorso. Ricorda e mettilo nel tuo cuore. Tutte le parole che escono dalla mia bocca sono parole cabalistiche. Non c'è una parola considerando il rituale. Ogni sera la gente mette candele nella Chanukah, partendo da sinistra a destra. Parlo solo delle leggi dell'universo, non di quelle tradizionali. Non è importante dove sta lo shamash, anche se mi piace se è accanto a me e non nel mezzo, ma ancora una volta non è importante. Con lo shamash accendi le 8 candele, e le candele sono Kelim. Il primo giorno posizioni lo shamash e la luce corrisponde a Kochmah. Poi inizi dalla prima candela a sinistra, perché la sinistra corrisponde con Malkut. Il secondo giorno metti la seconda candela, che corrisponde a Yesod, e metti questa candela accanto alla prima candela. La terza candela, giorno, corrisponde con Hod, la quarta con Netzach, la quinta con Tiferet, la sesta con Gvura, la settima con Chesed e l'ottava con Binah. Lo shamash sta lontano perché per 6.000 anni non possiamo ricevere il vero Kochmah, solo il Kochmah della Binah. Ciò che possiamo ricevere è Kochmah di Binah. Il Kochmah de Kochmah e superiore possono essere solo ricevuti dopo l'arrivo del Messia. Pertanto, lo shamash si trova da parte, ma in un certo senso è presente un po' di splendore di Kochmah che viene a noi. Il primo giorno è Malkut, la luce arriva sempre al Kli e ogni giorno c'è più Kli. A Gerusalemme ho sentito la seguente storia di un grande vecchio rabbino che era ancora molto lucido. La sua memoria era eccezionale, perché più impari nella Torah e nella Kabbalah, più forte ottieni la tua memoria. Aveva più di 80 anni e aveva scritto molti libri, anche su Chanukah, dove posizionare la Chanukah e le candele. Mi disse che ogni anno, quando si avvicinava il tempo di Chanukah, era preoccupato. Non era sicuro di come farlo e lo chiedeva ad altri. Questo è un buon esempio di come affrontare Chanukah ogni anno. La prima candela l'imposti a sinistra, perché i Kelim necessitano di essere costruiti dal basso verso l'alto. Domanda: non impariamo nello Zohar che prima la luce va a Keter? Sì, voglio farlo, ma poi diventa confuso. Se Malkut viene prima, è nel Kli Keter. Ma quello è solo quando tutte le luci non sono lì, e significa quando non c'è la sequenza corretta di luci e Kelim. quando la luce entra in un solo cli, significa che solo un cli può ricevere la luce. È il cli Keter con la luce di Malkut. Ma quando tutte le luci sono arrivate, allora c'è la sequenza corretta. Finché questo non avviene, non c'è la sequenza corretta tra luci e Kelim. Quando tutte le luci sono lì, la luce di Keter, Yechidah, entra al cli Keter, eccetera. Ogni cli ha 5 o 10 scomparti, l'impareremo oggi. Se c'è un solo scomparto, allora la prima luce entra nel cli Keter. Il più basso entra nel cli più alto, ma quando tutte le luci sono nel cli, l'ultima luce è la luce Keter, e questa luce Keter entra nel cli Keter perché ogni cosa deve combaciare. Ma prima che non combacia la luce, Malkut entra al cli Keter. Pertanto, nella prima notte, a sinistra è la luce Malkut, è l'inserimento nel cli Keter. La seconda è la luce Yesod. Da sinistra a destra sono Kelim che sono costruiti e Or Koser, la luce riflettente, aumenta. Il primo giorno c'è la forza per riflettere una luce. Il secondo giorno ci sono più Kelim, che significa più forza per riflettere la luce. Sopra lo Shamash c'è Keter, e sopra Keter è Ein Sof. A seconda della forza di riflettere, la luce entra. Ogni giorno accendi una nuova candela, e nell'ottavo giorno la luce più alta può essere ricevuta. L'illuminazione è da destra a sinistra. Perché? Poiché la luce viene da sopra sotto, sotto è sinistra e sopra è destra. Da sinistra viene Or Koser. Or Koser è la forza per riflettere la luce, e dalla destra viene la luce in entrata. Se lo fai in questo modo, sperimenti un pezzo di Kabbalah. Il mio apprendimento era tradizionale. Come affrontare Chanukah era in modo tradizionale, ma la mia testa non era adatta per questo. Una volta prese le leggi tradizionali, non avevo visto il Creatore, ma solo quando lo faccio in modo cabalistico sento il Creatore. Il mio consiglio è di lasciare andare la testa, altrimenti è impossibile sentire il Creatore. Per me è sufficiente sentire il Creatore e il resto viene dallo Zohar. Forse qualcuno di voi conosce le leggi molto bene. Quale stoppino di una candela è necessario? Per me si va troppo lontano, perché ci sono così tanti materiali per uno stoppino. Imparano quale stoppino è necessario, ma per me non sento il Creatore. Qualunque cosa io faccia, il Creatore deve essere lì. Voglio sentire Lui. Decidi tu stesso se questo è per te lo stesso. Qualunque cosa tu faccia, senti sempre il Creatore. Lo Zohar è la fonte della tua vita da cui ricevi la luce. Alla fine della lezione precedente sono andato veloce, stavo correndo. ho visto alcuni dei miei studenti vibrare a causa della mia vibrazione. Ma la cosa è che non abbiamo molto tempo ed è per questo che voglio fare così tanto. Ogni cosa ha a che fare con l'accelerazione. Qual è il motivo per cui queste accelerazioni sono presenti nelle nostre lezioni e perché speciali alla fine delle nostre lezioni? All'inizio c'è solo il risveglio dello spirituale e lentamente entriamo e raggiungiamo una dimensione superiore, una superiore frequenza della luce. Quello ci dà il sentimento di accelerare e anche il tempo sta accelerando fino a che esso alla fine non cambia in zero. Prima delle vibrazioni, prima quelle vibrazioni vanno veloci, proprio come ad esempio una sega elettrica. Mentre la sega accelera, è come se non si muovesse, come se fosse ancora ferma. Lo stesso nello spirituale. Superiore è il contatto, più la vibrazione è raffinata. Ma ovviamente non dovremmo correre in classe. Marot a Sulam. Visione di Sulam. In fondo alla pagina 5. Questa è la prima visione che Sulam ci ha dato. Non ce ne sono molte in tutto lo Zohar, ma qui è molto importante per noi comprendere correttamente la Kabbalah. Il nome scolpito ed esplicito. Ci sono due nomi per Nukva, come già sai dalle lezioni precedenti, e quei due nomi corrispondono a Katnut e Gadlut. Il nome si riferisce a quelle due parole. È scolpito e corrisponde con Katnut e di Nukva. È esplicito e corrisponde con Gadlut di Nukva. E lei riceve la sua costruzione anche dal nome di 42 lettere all'atto di creazione. Vedi, ci sono molti tipi di numeri nell'argomento di Sfirot. 1. Il numero 10 che sono Kagab, Kagat, Neim. Ripeto, Kagab, Kagat, Neim. 2. Il numero 7 che sono Kagat, Neheim. Kahab è Keter, Kochma, Bina. Kagat è Chesed, Gvura, Tiferet. E Neheim. Neheim è Netzach Chod Yesod Malkut. 3. Il numero 6 che è chiamato Vav finale. Chagat Nehim Nehi Nehi. Quelle 6 corrispondono alle 6 dimensioni che abbiamo in questo mondo, ossia destra, sinistra, avanti, indietro, sopra e sotto. Questo è il risultato di Zerampin, 6 e non di più. Chagat è Chesed, Gvura, Tiferet. Nehi è Netzach, Chod, Yesod. 4. Il numero 5, che sono 5 Chassadim, Chagat, Nehi o 5 Gvurot. Quando c'è Zeirampin, che sono 5 chassadim, e quando c'è nukva sono 5 gvurot. 5. Il numero 13, che sono 13 grazie di misericordia, o chahab, e il superiore chagat, e l'inferiore chagat nei necheim. In questo vedi ci sono 3 sfirot in più che fanno 13. E con questo capisci. C'è un libro chiamato Sefer Yetzirah, il libro della creazione, e si dice che Avraham lo ha scritto. È un libro molto importante e puoi trovarlo sul sito web. Perfino Ari e ogni grande cabalista affrontano quel libro. Ogni cosa è lì in una forma molto concisa. Il libro contiene solo 15 pagine. Non era necessario altro. Più qualcosa è inferiore, più sono necessarie spiegazioni. Puoi confrontarlo con una piramide o il monte Sinai. Più superiore è qualcosa e più è vicino al creatore. E poi c'è una sola prescrizione, ossia amerai il creatore come te stesso. Se hai l'unità con il creatore, tutte le 613 prescrizioni sono ridotte a una. Ma ancora tutte le 613 incisioni delle prescrizioni sono ancora lì. C'erano solo 10 prescrizioni quando Mosè ricevette la Torah, 5 per il lato destro e 5 per il lato sinistro. Perché? C'è la mano destra e la mano sinistra. Se guardi ad esempio alle prescrizioni scritte nella tavola di pietra, e nella lingua ebraica inizi da destra a sinistra, vedi le prime 5 prescrizioni sono sul lato destro. Queste 5 prescrizioni sono sulla relazione tra te e il Creatore. Quello è il significato del lato destro, o in altre parole, fede, fiducia nel Creatore, la resa completa e nessuna indagine. Quello è il lato destro. Sul lato sinistro ci sono 6 prescrizioni, fino a 10, e quelle sono sulle relazioni tra le persone. Qui c'è investigazione, cautela e vigilanza, eccetera, ha applicazioni nel nostro mondo. È il lato sinistro e nel lato sinistro c'è Gvurot. Nella destra è Chassadim, radunare l'amore per il Creatore. Mosè ha ricevuto 10 sfirot, e in quei 10 sfirot sono nascosti 613 sfirot, e puoi riportare il 613 al numero 10. L'inferiore viene, significa al nostro mondo, perché il nostro mondo è il più basso, la forma più pesante della creazione. Allora hai bisogno dei 613. Ma sappi che 10 è abbastanza e per i noachide 7 sono sufficienti. Nei 10 comandamenti vedi lo stesso. Ci sono nascosti i 613. In un certo senso, nei 10 comandamenti, ogni cosa è nascosta, solo che non è ancora sviluppata. Deve venire giù. quando impari la Kabbalah li riporti in alto. Hai solo bisogno di 10. Prima c'è 14. 14 proprio come sul monte Sinai e poi su Abinah. Le due lettere ebraiche, Yad, mano, fa 14. Puoi leggerlo nella lezione precedente. Mosè stava con le sue gambe sulla terra, 613 regolamenti aveva, e con entrambe le mani, Chesed e Gvura. 14. 14 si raddrizzò su Abinah, ed Abinah ricevette le tavole di pietra. Aveva bisogno di quelle due mani per diventare un trono, o in altre parole, il portatore dei 10 regolamenti. Mosè stette sul monte con le mani raddrizzate su Abinah, e da Abinah venne a lui la Torah, e lui è già Zeirampin, e sopra Abinah c'è solo a sinistra una prescrizione, Chokmah. Per mezzo delle tue correzioni sollevi lo spirituale, e anche tu vai al 14. 14 che significa la condizione per ricevere la Torah, proprio come fece Mosè. Questo significa che anche tu puoi tornare al 5-5, o il ricevimento della Torah. Ogni cosa rimane, perché è assolutamente spirituale, fino a che tu non diventi uno con il Creatore, perché poi c'è una sola prescrizione. Vedi com'è semplice? Più un cabalista o qualcuno che impara lo Zohar si porta in accordo con le leggi dell'universo, più è facile che lui veda il mondo. Non che chiuda gli occhi alla realtà, ma porta le 613 prescrizioni sopra e poi diventa uno, l'unità con il Creatore. Questo può essere raggiunto solo per mezzo del lavoro spirituale interiore e non tramite le cose intellettuali, perché se usi solo la tua testa rimarrà sotto. Non c'è scomparsa nello spirituale, ma devi portarlo dal basso verso l'alto. Più tardi lo Zohar ci darà più spiegazioni. Quindi mi fermo a raccontarti le cose perché Zohar può fare meglio. Ti ho dato l'esempio del Sefer Yetzirah, il libro della creazione. Si sa che ogni cosa è nascosta in questo libro, proprio come nello Zohar solo ancora nel seme. Tutti i segreti, tutta la creazione, è interessata dal primo inizio fino all'arrivo del Messia, sono lì. Si cerca di capire, ma un giorno qualcuno mi si avvicinò con la richiesta di indagare dove i minerali preziosi sono nascosti nel mondo. Questo per il bene della sua famiglia. Sapeva che un cabalista poteva scoprirlo tramite questo piccolo prezioso libro, Sefer Yetzirah. Non importa se potevo farlo, ho detto di no, perché lo Zohar si aprirebbe per me. Voleva darmi molti soldi, ma lo Zohar avrebbe parlato e con me. Poni questo nel tuo cuore. Quando fai qualcosa di sbagliato, più tardi sarà sistemato. Puoi continuare con quello che stai facendo, ma non verrà dall'interno, comprendilo. Ad ogni modo, se guadagni soldi, devi dare via il 10%. Vedi, è detto nel libro della creazione. 10 e non 9, 10 e non 11. Vedi, non c'è riduzione o aggiunta al numero 10. Tuttavia è vero che non si dovrebbe ridurre o aggiungere al numero 10 in ogni grado di un parzuf, ma bisogna sapere queste 10 sfirot: Kahab, Kagab, Hagat, Neheim. Ripeto, Kahab, Hagat, Neheim. Pagina 6. Sono in essenza solo 5 sfirot, che sono Kahab, Tum, Keter, Kochma, Bina, Tiferet e Malkut. In essenza sono 5 sfirot. Ma la sfira Tiferet contiene esso stesso 6 sfirot. Hagat, Nehi, Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Chod, Yesod. Pertanto ci appare il numero 10. Tiferet e Zerampin sono uguali, hanno solo un altro colore. Tiferet contiene 6 dentro di lei, quindi il totale è il numero 10. Però di tutte quelle 6 dettagliate sfirot, Hagat, Nehi hanno solo i loro propri dettagli dalla sfira. Da Tiferet lei ha 6 e quindi il numero 10. E il fatto che solo le speciali sfirot di Tiferet sono chiamate nel dettaglio e non il Gar, le prime 3 sfirot, Keter, Kokma, Bina. Non sono, perché sarebbe meglio Tiferet, al contrario, perché lui aveva una mancanza rispetto al Gar. Ci sono 5 sfirot di Keter e 5 sfirot di Kokma, eccetera. Ogni sfirà ne ha 5 proprie. Quindi perché non aggiungiamo questo con il numero di 10 sfirot? Lui dice, il fatto è che noi solo diamo all'individuale sfirot di Tiferet nel nome di 10. Qui ci dà le basi dove più tardi possiamo costruire molte cose. Il quale è perché questa specialità della questione del totale di 5 sfirot è uno dentro uno, e in ognuna di esse ci sono 5 sfirot, come sai, e sembra che ci siano solo 5 sfirot, Kahab, Tum, Inketer, e ci sono solo 5 sfirot, Kahab, Tum, in Kokma, e ci sono solo 5 sfirot, Kahab, Tum, in Bina. Per esempio, Keter in sé preclude Kokma, Bina, Tiferet, Zeirampin e Malkut. Kokma preclude da sopra in sé Keter, da qui il livello, e le rimanenti 3 sfirot. Ogni sfirà ha in sé l'inclusione di tutte le altre. In questo modo vedi come siamo collegati l'uno con l'altro. Le persone sono come le sfirot collegate tra di loro. Ogni persona ha fondamentalmente dentro di sé tutte le connessioni di tutte le anime. solo che noi abbiamo bisogno di sviluppare questo dentro noi stessi. Ognuno di noi ha la propria specifica sfera e radiazione, considerando la qualità della loro anima, che significa una certa parte di Binah, del mondo Yetzirah, di un certo Parzuf, eccetera, dove la tua radice è nel mondo superiore, quello è il tuo marchio. Non puoi andare ad un'altra radice. Puoi solo correggere te stesso considerando la tua radice. Ad ogni livello ci sono. Siamo arrivati dopo la disintegrazione dell'anima di Adam, dopo il suo peccato. Ogni persona al mondo ha le stesse qualità come Adam, solo Adam. Solo Adam era ancora nel potenziale, nel seme e non ancora sviluppato. In cima è 1 o 10 o 2 volte 14 e più tardi vengono le 613 prescrizioni in basso. Più tardi arrivarono nuove anime, ma nell'essenza tutte le anime erano già nell'anima di Adam. Poi divenne frammentato e distribuito a tutti i tipi di persone, a tutti i tipi di anime. Uno proviene dalla testa di Adam, non certamente la testa in carne, ma considerando i punti di forza che sono in accordo con le 10 sfirot della testa. E un'altra persona viene dalla spalla, e un'altra persona viene dai piedi. Non importa quale parte del parzuf di questo Adam, è tutto dentro di noi. Come tutta l'umanità ha ogni cosa che era già presente in Adam prima della caduta. L'intero significato è che dopo 6.000 anni di correzione lo riportiamo indietro, costruiamo il corpo interiore di questo Adam. Ad ogni modo, ciò che stai facendo ora, anche tu stai costruendo il vero corpo, e quello è il corpo interiore e non il corpo fisico. Meno attenzione dai al tuo corpo esterno, più attenzione puoi dare al tuo corpo interiore, il quale è eterno. Quando lasci questo mondo, la carne non ha importanza, quindi cosa rimane? In quel momento vedrai cosa hai fatto. Hai lavorato per il tuo capo? Hai dato il tuo cuore a qualcosa di materiale? Il tuo cuore ha bisogno di essere attaccato al Creatore, con il Creatore. Solo per lui devi rispondere. E non per la compagnia con cui hai lavorato o per le persone con cui hai vissuto. Ci sono 10 sfirot dentro di noi e sono in accordo con tutti i punti di forza presenti in questo Adam. Attraverso il tuo studio vai avanti e poi connetti te stesso con tutta l'umanità. Questa è la correzione di cui sto parlando. Per connetterti con l'intera umanità, poi hai costruito il tuo Adam personale. Ma per questo è necessario guardare attraverso lo Zohar. Non c'è altro modo. Ma per questo è necessario guardare attraverso lo Zohar. Non c'è altro modo. Se non c'è sforzo, non puoi raggiungere nulla. Ora lo Zohar ci dice che tutte le Sfirot sono integrate l'una nell'altra. Ogni Sfira ha una connessione con un'altra Sfira. È stato creato in questo modo. C'è la Ein Sof e quindi venne la grossolanità della luce, chiamata con il nome di Sfira. La luce non lascia mai un cli senza lasciare dietro una traccia. Ogni volta che ricevi la luce, sappi che è marcata per sempre. Non ti lascia mai e una traccia rimarrà dietro. Perché? Perché la luce ti lascia? La ragione di ciò è perché stai cercando di salire su un nuovo gradino più alto. Ancora una volta vieni a qualcosa che è sconosciuto. Ed è anche possibile che tu sia la ragione per cui la luce ti sta lasciando, nel senso che la luce ti è entrata, ma tu hai consumato la luce e proprio perciò non puoi andare avanti. Devi far entrare la luce, ma poi liberartene il più rapidamente possibile. Hai già ricevuto il gusto di qualcosa, e quindi non dovresti continuare a usare la luce finché ti acceca. Non dovresti mai ricevere la luce in modo tale che ti acciechi. Diventi troppo pieno, ti abbaglierà nel senso che sei andato troppo lontano. Ecco perché anche un insegnante deve stare anche attento a non dare troppo ai suoi studenti, che diventano ciechi da quello che sta per dire. Devi dare un significato in più a quello che può essere ricevuto, anche se con qualche difficoltà. Allora la luce entra e lo studente ha bisogno di lasciare andare, sapendo che alcune tracce rimarranno indietro, e ciò è sufficiente per la prossima lezione. La luce brucia sempre come una candela, e c'è sempre un'opportunità per accendere la candela. La candela che proviene da un grado superiore. Costruisci dentro te stesso la forza per accendere la candela che è dentro di te. Così la luce può lasciare alcune tracce nei tuoi kelim, e quelle tracce scenderanno alla nostra terra, e allo stesso tempo le tracce di luce ti tireranno su. Ciò non è bello, la luce non è tua, è l'intaglio dentro di te che ti dà l'opportunità di elevarti. Una traccia di luce rimane sempre dietro. Collegati, attaccati, perché la luce appartiene al superiore. È parte del superiore e te, grazie al tuo lavoro, al tuo studio, ti tiri su. Tutti gli Sfirot sono collegati e la ragione di questa connessione è perché l'Ein Sof è stato il primo e si prese cura di tutte le incisioni. L'irruvidimento della luce e per mezzo della grossolanità la luce entrò poco a poco attraverso una piccola linea. La luce va e viene. Puoi vedere questo come un tipo di vibrazione. Non è che la luce entra in Keter e va più giù. È sempre un movimento di andare e venire, come un respiro. La luce entra nel Kli Keter e torna indietro. La luce entra nel Kli Kochma e torna indietro. E così via, e quando finalmente la luce entra nella decima Sfira, sai che è stato 10 volte 10, un venire e andare 10 volte 10, perché senza questo nessun cli potrebbe sorgere. Il cli non può contenere la luce, quindi è sempre in questo modo. La luce entra e va, eccetera. In questo vedi che tutti gli sfirot sono presenti in ogni sfirà. Quando la luce entra in Keter, la luce viene da sopra e questa è chiamata luce maschile, e poi la luce esce. La luce che lascia la sfirà è più raffinata e la luce che rimane dietro nel cli è spessa. C'è sempre un'interazione. Come può entrare la luce? Questo accade tramite Zivug, l'interazione tra Orkoser e... Tienilo sempre in mente, così non devo ripetermi. Prima dal cli stesso appare un tipo di riflessione della luce. Sappi che la luce vuole sempre penetrare, ma il fatto è che all'inizio un cli non ha la forza di sperimentare la luce. Solo quando il cli ha costruito la forza per ricevere la luce, può riflettere la luce e per mezzo di questa riflessione gli sfirot mancanti entrano nel numero della luce che entra. Significa che la luce che va e viene fa che tutti gli sfirot entrano in questo cli e perfezionano fino al numero 5. 5 significa che c'è stata un'interazione nel cli e tutti e 5 o 10 sfirot sono mescolate tra loro. Keter ha ora 5. Keter de Keter, Kokma di Keter, Binah di Keter, eccetera, perché c'è la compensazione della luce Hoser, la luce che viene da sotto fino a 5 o 10 sfirot. È come un diamante con 5 sfirot dall'alto al basso e ognuno ha 5 sfirot orizzontali in se stesso. Ogni sfirà include tutti gli altri sfirot. Questa è una breve introduzione in quello che stai imparando in questo momento. Ora continuiamo con lo Zohar. Eppure ci dovrebbero anche essere solo 5 sfirot: Kahab, Tum, Intiferet. Tuttavia, poiché l'essenza di Tiferet è solo luce, Chassadim, e non Chokhmah, è obbligatorio che queste 5 sfirot siano incorporate dentro di lui, e non solo 5 tipi di Chassadim, e quindi continua a cambiare i suoi 5 sfirot, perché Kahab scende ed entra nell'aspetto di Hagat, e Tum scende ed entra nell'aspetto di Netzach Hod. Vedi, ci sono 5 Chassadim in Tiferet di Zeirampin, e non Chokhmah nel corpo. Nella testa, Kahab è l'area dove è possibile per Chokhmah di ricevere. Nel corpo, Hagat Nehi, c'è Chassadim. Porta nella tua memoria che ho parlato nelle lezioni precedenti che Zeirampin ha ricevuto da Binah 5 Chassadim e Nukva ha 5 Gvurot che sono anche una forma di Chassadim solo dal lato opposto. Qui vuole dirti non ti aspettare che nel Tiferet sia Kahab, Tum, perché non lo è. C'è solo Hasadim in Tiferet Zeirampin. È diverso da Keter Kokma Binah. Qui ci sono solo cinque Hasadim. Non è lo stesso racchiuso come con Keter Kokma Binah. Si racchiudono l'un l'altro come Keter Kokma Binah, ma non qui, perché non c'è Keter Kokma Binah. Pertanto è diverso. Alla fine ti sarà chiaro e avrai l'esperienza. Poi avrai un bellissimo strumento che ti salverà. E quindi continua a cambiare i suoi cinque sfirot, perché significa che Kokhmah non c'è. E nel corpo ci sono solo cinque luci che sono solo Hasadim, perché Kahab scende ed entra nell'aspetto di Hagat. Dalla testa venne lo Zivug, pertanto discese il Keter, Kokhmah e Binah nell'aspetto di Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, e tutti loro sono le qualità di Hasadim e non di Kokhmah. Non è facile per Kokhmah andare a Tiferet. Lasciami provare a spiegartelo. Keter ha 10 sfirot, o in altre parole, 5 sfirot. Lo stesso in Kokhmah e in Binah. Keter, Kokhmah e Binah sono la testa. Ora ricorda, nel corpo è diverso. Il corpo è Tiferet e lei non ha la testa. Significa che non c'è Keter, Kokhmah e Binah, solo sei sfirot. Considerando Zeirampin sono 10 sfirot, ma in realtà sono solo 6. Si sposta dalla tua testa, dal tuo intelletto a ciò che senti, e poi accadrà lo stupore. In un certo modo non è difficile, ma il linguaggio, Kahab, è disceso a Zeirampin ed è diventato Chesed, Gvurah e Tiferet. E Tum discende ed entra nell'aspetto di Netzach Hod. Invece di Kahab, vediamo altri colori, nomi diversi. Hagat, Chesed, Gvurah e Tiferet. Tiferet e Malkut divennero Netzach e Hod 5. Ed è per questo che i 5 sfirot incorporati in Tiferet sono chiamati solo Hagat Nach. Nella testa hanno il nome Keter, Kokhmah, Binah o Kahab, Tum. Nel Zeirampin hanno il nome Hagat Nach. E in Zeirampin c'è solo Hasadim. Inoltre fu aggiunto a loro il totale dell'aspetto di 5 Hasadim, ed è chiamato Yesod. Quindi Tiferet ha 6 sfirot, Hagat Nehi. In questo vedi che c'è un'aggiunta nel Tiferet. Ha ricevuto una sfira extra che ha tutti gli aspetti dei 5 sfirot di Tiferet, e questa sfira extra è Yesod. Ancora una volta, Tiferet Tiferet o Zeirampin, hanno dentro di sé cinque e sono chiamati Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach e Hod. Nel corpo Tiferet riceve una sfira extra, ovvero Yesod. Yesod è un tipo di punto di raccolta o di intersezione che significa qui in Yesod tutti i cinque sfirot di Tiferet si uniscono. Così c'è Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach e Hod più Yesod. Ho già parlato di Yesod. Yesod ha ricevuto ogni cosa e l'ha passato a Nukva, il sistema operativo a cinque Chassadim. Chagat Nach, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, ed essi si trovano tutti in Yesod. In Yesod si uniscono, quindi Yesod li ha tutti. Ovviamente la forza è diventata minore, ma le tracce di Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod sono qui in Yesod. Ha bisogno di quelle tracce per passarle a Nukvah, ma prima che lui può fare questo, ha bisogno di un supplementare ingrossamento. Qui in Yesod la forza dei dieci Sfirot è ulteriormente ridotta, così ora la Malchut può sperimentarli, e questo ci dà il numero 6. C'è voluto molto tempo prima di riuscire a sperimentare questo in me stesso. Non c'era nessuno che potesse spiegare questo a me, nessun cosiddetto saggio della Torah o nella Kabbalah. Lo strumento più importante che devi costruire è la tua Kavanah. È necessario renderti ricettivo. Questo è tutto ciò di cui hai bisogno. Il desiderio profondo è lo strumento più importante. Il tuo interiore ha bisogno di questo desiderio profondo. Nota che il tuo esterno ha l'opinione di «questa è una sciocchezza». Quindi il tuo interiore deve essere preparato a diventare ricettivo. Ci sono così tante sciocchezze nel mondo. So su cosa sto parlando perché ho imparato tutte queste sciocchezze. Posso dirti di più sul Nuovo Testamento che sul Vaticano. Posso dirti tutti i segreti. Posso dirti ogni cosa su Gesù più del Papa, ma devi sapere non una sola parola viene da me. Tramite lo Zohar posso spiegare, rivelare tutti i segreti che sono ancora nascosti per loro che si tengono occupati con la religione. In questo tempo possiamo sperimentare più di tutti i santi apostoli insieme, semplicemente perché il tempo è pronto. Ci sono ancora persone che pensano che quello che è successo in passato sia stato meglio, ma non è così. Naturalmente erano più vicini al Creatore e noi siamo molto più lontani, ma questo ci dà molta possibilità di sperimentare più di tutti il divino insieme. Erano alti, molto più alti di noi, ma in questo tempo siamo molto egoisti, e ciò è buono. Parla al tuo interno. lascia che l'esterno sia per quello che è. Non ascoltare ciò che l'esterno ti sta sussurrando nelle orecchie. Se ascolti l'esterno, allora non capirai nulla. Nel momento che inizi a leggere questo scritto, hai immediatamente l'atteggiamento di dare. L'atteggiamento di dare è una medicina nel nostro mondo, ma sto parlando dell'interno. Dare significa che inizi a vivere dal tuo interno. Solo l'interno può dare. Non toccare l'esterno, perché l'esterno non può dare. Nota la volontà esterna. Cerca in modo ambiguo di tenerti lontano dall'interno. Quindi stai attento e non fare la commedia. L'esterno ha bisogno dei cinque sensi, vuole i benefici di qualcosa. Deve dargli qualcosa, altrimenti non lo farà, o peggio ancora, fuggirà. Quello è l'esterno. È assolutamente impossibile che l'esterno ti dia qualcosa che significhi il vero dare. Non sto parlando di fare un regalo a qualcuno, ciò è materiale. L'esterno vuole stare bene e ovviamente anche questo va bene. Nessuno fa un regalo solo con il suo esterno. L'interno c'è anche lì, ma qui la Kavanah è anche la parola chiave. È così importante come dai. Puoi dare qualcosa senza aspettarti nulla in cambio? Anche sentirsi bene appartiene a questo. Devi rimanere inviolabile nel tuo dare. Quando dai, tieni in mente che è il tuo interno che dà, perché l'esterno non può dare. Anche quando stai leggendo questo o imparando la Kabbalah, cerca di stare in contatto con il tuo interiore. Se è così, tutti i cancelli si apriranno e l'esperienza sarà la tua parte. Dai dal tuo interiore. Non è così difficile. Quando dai dal tuo interno, puoi ricevere. Credetemi, ho studiato per così tanti anni e ho cercato di capire con la mia testa. Intellettuale ho potuto dare una lezione, ma il sentimento non era lì, solo la storia, e in un modo quello è anche buono, ma per ora è sufficiente capire che Tiferet ha 6 Sfirot, 5 Hasadim e Yesod. Tutto va a Yesod, e Yesod dà a Malkut, che è abbastanza. Più tardi sperimenterai. Cosa dice lo Zohar? Tanti segreti, ma hai bisogno di orecchie per sentire. Hai bisogno di esperienza, che significa che l'interno, che è ancora nascosto, ha bisogno di venire in superficie per ricevere la più alta comprensione e la salvezza. Ma il tuo interiore è ancora nascosto, quindi hai mancanza e quello è buono. Il tuo interiore è nascosto in profondità dentro di te, o è nascosto in un modo che non puoi sperimentare. Non è facile per te, ma sappi che l'interno ha la comprensione e la forza per portarlo in superficie, così lo puoi portare più sopra. Dentro di te la forza è enorme e devi solo svegliare un pezzo di questa forza e lasciare il resto. Non cercare di svegliare tutta la forza. Questo è un enorme segreto. Apriti solo per un piccolo pezzo, perché ci sono cose nascoste che non è bisogno di portarle in superficie. È molto meglio se le lasci lì, meglio per la tua salvezza. Impara a vivere con i segreti che hai dentro di te. L'esperienza di ciò che è nascosto è una comprensione nascosta. Ciò che è ancora nascosto non è abbastanza evidente per te. O puoi pensare che sia evidente e vuoi portarlo in superficie, ma c'è un segreto profondo. È l'inizio della tua fase più evoluta di rivelazione. Ricorda che ci sono luoghi dentro di te che non sono corretti, e proprio in quei luoghi avrai la salvezza e la comprensione più importante. Lascia andare il desiderio di lottare per una maggiore conoscenza intellettuale e lascia andare il desiderio di voler sperimentare in modo esatto in tutto ciò che viene detto. Non è questo il modo di sperimentare, di sentire la logica divina. Costruire il desiderio di lasciare le cose nascoste. In un certo senso è l'uno contro l'altro. C'è il rivelare e c'è il nascondiglio. Questo è come dovrebbe essere dentro di te. Trova l'equilibrio tra quei due e otterrai la vera osservanza. Ricorda che non c'è bene o male, sì o no, un compromesso tra quei due. È tutto sulla comprensione e non comprensione. Vita e morte. Qui hai bisogno di bilanciare. Se sei arrivato alla resa completa, si sente come se tu morissi. Preparati a morire, altrimenti non ha alcuna utilità. Che cosa fece Isaac? Era completamente morto quando suo padre lo portò all'altare. Cosa intendo con completamente morto? Sapeva che sarebbe morto e dall'interno l'accettava. Significa se la sua anima avesse già lasciato, come se la sua anima avesse già lasciato il suo corpo. Lui aveva già detto addio. Lascia che questo sia un esempio per te. Se lo rifiuti, se non riesci ad accettare ciò che stai leggendo, sappi che è impossibile ricevere la vita. Questo è uno dei motivi per cui la mia gente non vuole imparare la Kabbalah. Preferiscono vivere in questo mondo, significa dentro il loro intelletto. Preferiscono la morte spirituale invece della morte dell'essere esterno, mentre i nostri antenati si sacrificavano. È possibile che ci sia una discendenza che ha la salvezza? C'è un altro modo per loro di arrivare alla salvezza diverso da quello che hanno fatto i nostri antenati? Capisci cosa intendo? Abramo si sacrificò completamente. Aveva rinunciato a tutta la sua logica. Il Creatore gli disse: «Il seme santo verrà da te. La salvezza dell'umanità verrà da te, seguita dalle parole: e ora sacrifica tuo figlio». E così fece Abramo. Questo è ciò che lo Zohar ci dice. Più tardi imparerai che tipo di punti di forza si parla qui. È molto cabalistico e con l'aiuto delle Sfirot imparerai. Devi sapere che ci sono cinque chassadim e c'è Yesod. Più tardi imparerai da dove provengono. Tutto è nascosto nelle Sfirot e grazie al tuo apprendimento capirai le storie della Torah. C'è ad esempio la storia dell'uomo che aveva 100 anni e di sua moglie 90 e hanno avuto un figlio. Questo è molto illogico. Questa nazione è venuta all'esistenza in maniera molto illogica. La loro responsabilità, la loro forza, è di portare l'illogico al significato logico. Ciò che è illogico per noi è logico per il divino, e loro devono compierlo. Devono uccidersi considerando il divino, l'eterno. Disse ad Abramo di sacrificare suo figlio, e da lui verrà il seme divino, Isaac. E doveva sacrificare suo figlio. Lo Zohar chiede come sia possibile. Sappi che lo Zohar fa domande. Avram era molto vecchio, aveva 100 anni quando nacque Isaac. E quando lui gli chiese di sacrificare Isaac, Isaac aveva 37 anni. Pertanto lo Zohar chiede, come può un vecchio così sacrificare Isaac? Lui era così forte? Oh sì, era un uomo molto forte, ma non fisicamente. Lo spirituale era molto forte, perché proveniva da Gvura. Con un colpo Isaac poteva uccidere Avraham, perché era un uomo anziano, aveva 137 anni. In un certo senso era adatto per la casa di riposo. Tuttavia ha portato Isaac al luogo per sacrificarlo. La caratteristica di Avraham è Chesed, amore, compassione. E mentre andavano alla montagna, è possibile per qualcuno con una tale qualità, è anche scritto che Avram portò a casa tutti gli arabi con i loro cammelli. Ha portato a casa tutti e con questa qualità era preparato a sacrificare il suo unico figlio, il figlio dal quale sarebbe venuta la salvezza. È possibile questo? Quando se ne andarono, Isaac gli chiese «Dov'è il sacrificio?» e Avram gli disse «Il Creatore se ne prenderà cura». Lo Zohar ci dice che in questo momento ha superato il suo Chesed. L'intero significato dei tre antenati è: il primo è da Chesed, il secondo da Gvura e il terzo da Tiferet, la linea nel mezzo. La perfezione era dai tre punti di forza di quelle tre persone. Erano in accordo con il sistema operativo di questi tre punti di forza. Chesed, Gvura, Tiferet, proprio come con Zeirampin. Quando se ne andarono, Abramo ha superato dall'interno la sua misericordia, tutto il suo amore per suo figlio. La sua fede era enorme, non voleva nemmeno pensare a come avrebbe potuto. C'era qualche logica in Avram? Il Creatore gli disse che da lui sarebbe venuta la discendenza e il Creatore gli disse di sacrificare il suo unico figlio. C'è una logica? Se vuoi ricevere la salvezza, tienilo a mente e hai lo stesso atteggiamento. Da una mano lui ti salverà e dall'altra lui vuole che tu preferisca la morte. Uccidi la tua logica terrena proprio come fecero Abraham e Isaac. Posò la testa sull'altare. Era pronto perché anche Isaac si era sacrificato dall'interno. Questo accadde nel luogo dove era l'altare del primo e del secondo tempio. Il posto dell'altare nella terra di Israele è dietro il muro del pianto sul lato arabo. Grazie ad Hashem ora è monitorato dagli arabi. Gli ebrei non possono venire lì e questo è un bene perché i rituali che gli ebrei fanno sono impuri. Dall'alto è disposto in questo modo. O in altre parole, in ogni cosa che fai, nella Kabbalah, nella vita vera devi combinare quei due. Da un lato sii fiducioso e cerca di capire cosa ti sta dicendo lo Zohar, e dall'altro abbi fede, proprio come fece Abraham e Isaac. Più tardi imparerai da Yaakov come superare la morte dentro di te. Per superare la morte dentro di te, devi essere preparato a sperimentare la morte per essere in grado di ricevere la vita. I nostri avi hanno ricevuto l'eternità perché erano disposti a morire. Questo è l'unico modo per ricevere l'eternità. Se è così, come è possibile che c'è discendenza? Quando studi la Kabbalah, sai che deve essere lo stesso con te. Se hai Chesed, sacrifica il tuo Chesed per le Gvurot. O se hai Gvurot, sacrifica la severità per Chesed, gentilezza. In questo modo riceverai la terza linea e quella è la linea della vita. In un certo modo abbatti un piccolo pezzo della tua gentilezza e abbatti un piccolo pezzo della tua severità. Capisci? Questo è ciò che fece Abramo. Ha sacrificato il suo Chesed, la sua misericordia, considerando Isaac, considerando la severità. Lo stesso con Isaac. Ha sacrificato la sua severità per Abraham. Per la misericordia, in questo modo, il padre ha ricevuto un pezzo da suo figlio e il figlio ha ricevuto un pezzo da suo padre. E per questo è apparso il terzo, ossia Yaakov. Il Creatore ha detto, e dire significa comprensione. Ovviamente non parlava letteralmente, ma Avram ha compreso che da lui, da Isaac, sarebbe venuto Yaakov. Yaakov, la linea nel mezzo. Il significato della linea nel mezzo è non c'è troppa severità e non c'è troppa misericordia, perché Chesed e Gvura sono i due estremi. Lui sapeva che sarebbe nato Yaakov e che da Yaakov sarebbe venuto il popolo santo. Sapeva che la Torah sarebbe stata data alla sua discendenza e il re David e il Messia sarebbero venuti da lui. Prova a procedere allo stesso modo. Da un lato vuoi sapere e dall'altro andare oltre il tuo intelletto. Da un lato sii attivo e dall'altro sii inerte, perché nel mezzo c'è l'eternità. In questo modo ti muovi in avanti, sul sentiero chiamato vita. Shalom.